Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 10. I nuovi comandamenti. Dopo una settimana si diffuse in città una strana sensazione di déjà vu. La collina aveva iniziato a ripopolarsi. C'erano persone, da sole o a gruppetti, che si arrampicavano lungo i fianchi, ora brulli, ora erbosi, della collina, come se avessero dovuto fisicamente dare l'assalto al paradiso e guadagnarselo sul campo. Si facevano largo a mani nude fra gli arbusti, usandoli come funi per arrampicarsi, striandosi palme di tagli rossastri, rigagnoli di rossa devozione offerti in sacrificio al senza nome. A differenza della formazione del primo sciame, però, sembrava che questo non finisse mai. C'erano addirittura segni di piccole frane, come se la collina fosse irritata e disgustata da quell'improvvisa invasione di cavallette umane. Diossido non aveva la minima intenzione di scalare a mani nude la collina. Si diresse verso la strada asfaltata, più lunga ma più semplice. Gli avrebbe anche dato il tempo di pensare. In cima alla collina la gente si stava velocemente radunando attorno a un punto focale che tuttavia non era visibile. Gli ultimi arrivati non tentavano di fendere la folla per arrivare in cima, ma si limitavano a occupare i primi centimetri liberi che trovavano. Lentamente, come cioccolata fusa versata su una torta, la collina essudava umani, li spandeva attorno a sé senza riguardo per le strade, le vie, le piazze. Come la volta precedente, le autorità si ritrovarono totalmente impreparate a fronteggiare la situazione. Il commissario aveva già ricevuto decine di segnalazioni e inviti a recarsi sul posto, ma il meticoloso lo aveva istruito bene: intralciare e deviare finché possibile ogni tipo di intervento nei loro confronti. Tutto era come doveva essere, tutto andava come doveva andare. Drago aveva programmato 3 giorni di mistero prima di rivelarsi. Gli sembravano perfetti per creare un'attesa che non sarebbe potuta essere stata ignorata. L'ovvia simbologia aveva inoltre un significato particolare per l'obiettivo primario. Gli avrebbe permesso di agganciarlo e preparare al meglio il terzo avvento. L'evento era già su internet. Nei social network correva la notizia di cose da pazzi che succedevano nella città. I primi furgoncini con le insegne dei maggiori network televisivi erano già parcheggiati ai piedi della collina e la folla, in continuo arrivo, aveva già iniziato a fagocitarli. La notte passò rapida. Il mattino seguente il commissario non poté fare più di tanto per bloccare ulteriormente le indagini. La cosa iniziava a farsi seria e a preoccupare i suoi superiori, che volevano vederci chiaro. Ma ormai la massa di gente che si era radunata attorno alla collina era troppa per poter solo pensare di allontanarla con l'uso della ragione o della forza. Il pellegrinaggio non aveva avuto sosta durante tutta la notte e la marea di persone arrivava ormai fino alla periferia della città. Alcuni reporter erano riusciti a forza di spintoni ad arrivare in cima alla collina. Il paesaggio era ovunque omogeneo, persone in piedi, silenziose, alcuni che a capochino muovevano le labbra, altri guardavano in aria occhi chiusi, sorridendo al cielo. Vi era però una zona in cui nessuno riusciva a entrare, nonostante ogni sforzo. Gli individui che ne delimitavano l'area formavano un ampio cerchio che bloccava la visuale sul suo interno. Avevano tutti lo sguardo rivolto verso l'esterno del cerchio e il viso nascosto da un velo bianco. I reporter si erano dovuti arrestare proprio davanti a loro. Attendevano insieme allo sciame, inviando resoconti di ciò che potevano vedere ai microfoni e alle telecamere che li seguivano. Era pomeriggio inoltrato quando il circolo dei velati si dischiuse per il tempo sufficiente a far uscire acqua di cane. Avrebbe voluto morire piuttosto che fronteggiare la massa di giornalisti. Forse avrebbe considerato più sicuro trovarsi di fronte a un branco di squali bianchi affamati. I suoi occhi correvano ovunque, saettando con imbarazzo e timore. lasciò che gli avvicinassero i microfoni e che si avventassero su di lui urlando domande sovrapposte e tutto sommato prevedibili. Li lasciò parlare fino a che non si sfogarono. Poi, una volta fattosi silenzio, annunciò: «Domani, al tramonto!» I cronisti rimasero per un attimo interdetti, a bocca aperta. A causa del frastuono che facevano, non tutti riuscirono a capire le parole dell'annuncio. Subito dopo iniziò una seconda raffica di richieste a ripetere. Acqua di Cane iniziava a innervosirsi. Aveva la sensazione di stare mettendo i piedi in una tagliente tagliola per orsi. Alzò le braccia per chiedere silenzio e ripeté: «Domani? Al tramonto?» E subito si girò per andarsene. «Che cazzo significa domani al tramonto? Ehi, tu dove cazzo vai? Ma che ci prendi per il culo?» I cronisti, frustrati come iene che avevano visto la loro preda ferita improvvisamente rialzarsi e scappare via, non ci stavano e tentarono di afferrare Acqua di Cane per una spalla prima che potesse sparire. Ma il muro di velati che faceva circolo intorno al fulcro di tutta quell'energia implacabile si richiuse prima che potessero sfiorarlo. Rimasero irosi, preda della loro frustrazione, e subito iniziarono a pensare a cosa avrebbero potuto tirare fuori dalle scarne notiziole che avevano. In ogni caso avrebbero potuto ciarlare per ore e ore a proposito e a sproposito di tutta la marea umana che si era radunata, del misterioso motivo per cui ciò era accaduto. Avrebbero potuto persino sicuramente intervistare qualcuno dello sciame con la certezza di poter costruire una storia a partire da qualsiasi farfugliamento senza senso che il malcapitato avrebbe potuto emettere. Già a un inviato era sembrato di scorgere alcune suore fra la folla ed era partito per la caccia. La faccenda si faceva ghiotta. La seconda notte si avvicinava. La moltitudine era dilagata fino alla spiaggia sottostante. Alcuni stavano in piedi nel mare con l'acqua fino alla cintola, altri nuotavano pigramente nelle vicinanze. Alcuni elicotteri ronzavano come cervi volanti muniti di occhi luminosi, sorvolando senza posa l'apice della collina. Le pupille elettroniche registravano ogni dettaglio, ritrasmettendolo attraverso il nervo ottico globale. Numerosi cronisti erano riusciti ad arrivare fino al limite del circolo dei velati. Avevano piazzato telecamere puntate sulle nuche e sui veli della barriera, ma non riuscivano a curiosare all'interno del circolo. La notte, intanto, si preparava a oscurare per l'ultima volta quel multicolore oceano formicolante. Diossido se ne stava seduto su un muretto chiedendosi se da solo sarebbe stato in grado di fare qualcosa per fermarli, sebbene non sapesse né cosa né se fosse davvero una buona idea impedire a quei due di rivoltare il mondo come un calzino. Tanto, peggio di così, non riusciva a immaginarselo. Il terzo giorno nacque come nascono tutti gli innumerevoli giorni da quando la Terra ruota attorno al Sole. Se non fosse stato per la città bloccata dallo sciame e gli elicotteri che ormai a decine volavano sopra di essa, si sarebbe potuto scambiare tranquillamente per un giorno qualsiasi. Mirko e Drago, riparati dalla tenda del circolo dei velati, seguivano su un portatile le notizie dei siti di informazione. Le pedine della RAI erano lì, in impeccabile puntualità. Ora avrebbero aspettato il TG1, sicuri che tutta la nazione, o almeno la maggior parte del futuro gregge, fosse incollata alla televisione. Il pontefice aveva fame. La cena era ben bilanciata e appetitosa e, anche se gli ultimi anni erano stati un turbinio di accadimenti, l'appetito non gli era mai mancato. A dispetto delle preoccupazioni che riempivano i suoi pensieri durante tutta la giornata, il momento dei pasti era per il pastore tedesco l'unico intervallo di tempo nel quale riusciva ancora a sentirsi una persona qualunque. Amava tenersi informato guardando i telegiornali e saltabeccando qua e là tra i canali mentre provvedeva distrattamente a nutrirsi. Il cibo era per lui una semplice necessità. Molto raramente si faceva conquistare dall'abilità sopraffina dei cuochi in servizio alla Santa Sede, ma il cibo serviva comunque da sottofondo ai suoi pensieri, districandoli e rimettendoli in ordine senza forzature. Quella era una serata di notizie importanti. Come se non fossero bastate le crescenti tensioni tra i vari paesi nel mondo, c'era anche quel fatto misterioso, quella specie di annunciazione pagana e blasfema. Aveva letto vari rapporti dei suoi corrispondenti e li aveva accolti con malcelata apprensione. Non vedeva niente di razionale in quegli eventi e questo istintivamente lo inquietava. Lo schermo trasmetteva immagini di politici italiani con la bocca in perenne movimento e lo sguardo fisso in camera. Il volume era basso. Già talvolta doveva avere a che fare con alcuni di loro e non gli andava proprio di doverli ascoltare anche mentre mangiava. Quella sera gli interessava vedere chi si celava dietro ai recenti fatti insoliti. Dentro la tenda, Drago disse: «Allora, socio, sei pronto? Da qui non si torna più indietro». Drago ridacchiò. Tirò fuori dalla tasca il foglio con il suo discorso. Erano una decina di righe. Mirko lo guardava di sottecchi. «Sai, dopo Roma, dopo che ho perso il controllo così, mi viene un senso di claustrofobia essere Dio. Gli adoratori che ho mi bastano e avanzano. Sarò la tua spalla se vuoi, ma credo che mi tirerò indietro. Tanto che cambio per te se sono pronto o no. Vai avanti». «Vuoi sapere una cosa?» Drago aveva alzato il tono della voce e lo guardava minaccioso. «Lo sapevo che mi avresti detto così!» e scoppiò in una fragorosa risata. «Ma vuoi saperne un'altra? Mi sta bene. Così ci sarà qualcuno vicino a me con uno sguardo più distaccato. Sai, nel caso mi facessi prendere dal delirio di onnipotenza. Dai, socio, che andrà tutto bene. Anzi, sarà la cosa più fantastica che ti puoi immaginare». «Hai ragione, sarà così», disse Mirko fissando un punto imprecisato sul pavimento. «Sarà uno sballo, una figata». Il pontefice interruppe per un attimo la masticazione e i pensieri. L'immagine sullo schermo era cambiata. Era una ripresa aerea di un fiume di persone che ricoprivano ormai un'intera città di medie dimensioni. Non sapeva che le cose fossero arrivate così lontano. In basso sullo schermo scorrevano in sovrimpressione le sintesi delle notizie più importanti. Attesa per questa sera la soluzione al mistero della città sommersa. La protezione civile invita i cittadini a non dirigersi verso l'area e a seguire le notizie in televisione. Chiusi tutti gli svincoli dell'autostrada 14 nei pressi della città. Prese il telecomando e alzò il volume. «Siamo in attesa di novità. Il tramonto è iniziato da pochi minuti. Dovrebbe essere questione di istanti per avere qualche novità. Intanto posso dirvi che qui la situazione è incredibile. Non c'è un solo centimetro di spazio libero da qui fino al mare. Noi siamo spaventati da cosa potrebbe succedere se dovesse verificarsi qualche emergenza. Oh, aspettate. No, mi era sembrato di vedere la tenda aprirsi, ma forse mi sono sbagliato. Scusate, ma qui l'emozione è tanta». Lo speaker sudaticcio e spiegazzato sembrava davvero allo stremo. Il pontefice osservava lo schermo, sorbendo pensieroso il consommé. La tenda si aprì lentamente. Il pontefice sentì per un attimo come un lieve ronzio di zanzara all'interno del cranio. Poi la mandibola gli cadde mentre gli occhi gli si sgranavano. La tenda si era aperta e ne usciva un essere divino. Era come svegliarsi da un lungo sonno e ritrovarsi faccia a faccia con il tuo creatore. Il cucchiaio gli cadde dalla mano inconsapevole, sollevando schizzi di brodo. Gli occhi onnipotenti lo fissavano e insieme a lui stavano fissando il mondo. Il pontefice si ritrovò carponi senza riuscire a distogliere anche solo per un secondo lo sguardo dalla rivelazione che aveva ora di fronte. Drago si beava alla vista delle migliaia di persone prone davanti a lui. Guardava nell'obiettivo della telecamera sentendo scorrere sulla propria pelle il potere. Lo avvertiva espandersi da lui e raggiungere ogni terminale nervoso collegato. Si stava gustando ogni istante alla grande. Il pontefice era in un limbo di estasi divina. Tutto quello che vedeva e percepiva era la presenza di Dio. Un Dio con occhi e una bocca che iniziava a parlare. Il viso di Dio riempì lo schermo. Fece un respiro. Poi una pausa. Poi disse in un sussurro che avrebbe perforato anche l'acciaio: «Donate a chi non ha». fu come un cazzotto nella pancia del pontefice. Ma certo, era ovvio. Come aveva fatto a non pensarci prima? Aiutate chi non può, continuò l'onnipotente. Il pontefice annuiva in silenzio. Amate l'amore, fuggite dall'odio. Le parole di Drago arrivavano all'essere del pontefice saltando tutti i normali canali sensoriali. Se l'anima avesse avuto orecchie, avrebbe sentito in quel modo. Create armonia, create bellezza. Mentre il dio parlava, nella mente del pontefice scorrevano immagini di terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami, montagne che crollavano e mari che bollivano. Sapeva che, come sempre era successo, quello sarebbe stato il prezzo da pagare del castigo divino in caso di disobbedienza. Ma come si poteva mai pensare di disubbidire a Dio quando ti parla direttamente in faccia? Mirko era rimasto dentro la tenda. Con l'antidevil attivato, stava guardando il TG insieme a milioni di altre persone. Ma a differenza di loro, quello che vedeva ora non era Dio, ma il suo migliore amico che con una notevole faccia da schiaffi teneva prediche in TV. Mirko guardava lo schermo e sogghignava. Si chiedeva come si faceva prendere sul serio quella faccia a lui fin troppo familiare. Era contento di non essere lì fuori. Preferiva gustarsi il tutto da dietro le quinte. Era molto più eccitante sapere di non avere nessuna responsabilità per lo sconvolgimento che senz'altro stava accadendo là fuori. Era il più bel film che avesse mai potuto sperare di vedere. Nulla è solo vostro. La calda voce suadente di Drago continuava a cantilenare il sermone. I suoi occhi saettavano dentro e fuori lo schermo. Non c'è inferno, non c'è paradiso. Il pontefice ebbe un conato di vomito, ma si trattenne, timoroso che il dio lo vedesse e lo punisse. Siate liberi, rendete liberi. Mirko continuava a ridere, parlava ormai da solo. Grande, grande, grande. Vai così, fratello, spaccagli il culo a quei bastardi, aprigli le menti come se fossero meloni. Il meticoloso non aveva fretta. Era conscio che ormai chiunque si fosse trovato, anche solo per caso, davanti a uno schermo, una radio, un altoparlante, sarebbe stato afferrato dal devil. Aveva anche capito che più continuava a parlare, più avrebbe avuto occasioni di catturare altre prede. Gli sembrava di udire la sua voce uscire dai milioni di televisori sparsi per tutta la nazione. Era il ragno che aveva creato la più grande ragnatela del mondo. Gli italiani guardavano Dio, lo stavano seguendo in diretta, lo stavano ascoltando con le loro orecchie. Non poteva esserci nessun dubbio, nemmeno l'ombra di un vago sospetto che quello in TV non fosse l'onnipotente. La televisione era diventata un occhio su un'altra dimensione. Il mondo reale, all'improvviso, sembrava inconsistente, evanescente. Era solo un'immagine televisiva che avevano ottusamente scambiato per la realtà. Fai a te stesso ciò che fai agli altri. Drago aveva passato ore e ore a rifinire i suoi comandamenti. Non voleva essere troppo prolisso e imporre numerosi precetti. Sapeva che tra le maglie della complessità scivolano i peggiori serpenti. Quello di trattare se stesso come si trattavano gli altri gli era sembrato perciò molto appropriato. I malvagi, se mai esistevano veramente, si sarebbero eliminati con le loro mani. La nuova alba di un nuovo giorno per il nuovo mondo era arrivata. Siate felici, disse Drago. Poi tacque e si avviò verso la tenda. Era già tempo di preparare la prossima mossa. Il silenzio che seguì faceva accapponare la pelle. Mirko era in piedi sulla soglia della tenda. Applaudiva lentamente il ritorno del neodio. Cazzo, Drago, quasi quasi comincio ad adorarti anch'io, e scoppiò a ridere. Anche Drago rideva di gusto. Sono un mago, sono un fottuto stregone. E ora? Chiese Mirko. E ora è ora di andare, socio, disse Drago. E dove? Beh, ora abbiamo un bebè di cui prenderci cura. Ah, vuoi dire... Certo che voglio dire. Povera creatura, non possiamo mica scaricarlo proprio ora. E ridendo come pazzi, si fecero strada attraverso i corpi in adorazione che affollavano ogni centimetro della collina. Il giorno dopo, per le strade, nessuno sapeva dove stava andando, ma tutti ci andavano con la massima calma. In comune avevano quello sguardo di chi improvvisamente realizza che il posto che conosce e in cui ha sempre vissuto si è trasformato in una fogna dopo qualche disastro naturale. Come se un'alluvione avesse intasato le fogne di tutta la città, portando a galla tutto il putridume con cui avevano sempre convissuto, ignorandolo o nascondendolo sotto un tombino. Era uno sguardo di compassione e orrore per ciò che vedevano, ma nei loro occhi c'era anche il brillio del desiderio di ricominciare. C'era chi, chino sul ciglio di una strada, costruiva piccole torri di pietruzze, assorto come un seienne che costruisce castelli di sabbia sulla spiaggia. Qualcuno stava togliendo le erbacce tra le pietre delle vecchie mura romane. Qualcuno addirittura raccoglieva le cartacce e le immondizie sparse in terra. In sole 24 ore tutto era cambiato. Drago, sotto il suo cappellaccio, guidava taciturno, attento a non farsi bloccare dal traffico della capitale. Sapeva che non c'era tempo da perdere. Non potevano rischiare di essere fermati dalla folla adorante. Arrivati a destinazione, sgattaiolarono, rapidi e inosservati, fino alla loro meta. Il pontefice era seduto allo scrittoio, indaffarato a elaborare il suo nuovo messaggio domenicale alla luce della nuova rivelazione. Non aveva mai pensato che avrebbe dovuto affrontare il compito di illustrare le parole uscite dalla bocca di Dio. Prima d'allora non avrebbe neanche mai pensato che Dio avesse una bocca. Domenica sarebbe stata una giornata cruciale. Non poteva certo starsene zitto dopo quello che era successo. Avrebbe dovuto commentare in mondovisione la nuova rivelazione, l'inizio di un nuovo patto con Dio. Aveva la penna in mano e la mano appoggiata alla testa. Esitava prima di fissare con l'inchiostro i pensieri che erravano nella sua mente. Certo, era la parola di Dio, ma era così diversa da tutto quello che gli era stato insegnato, in cui aveva creduto. Non c'è inferno, non c'è paradiso, ma come? Se la disciplina della Chiesa aveva usato questi due luoghi mitici per secoli, come si faceva ora a buttare via tutto? Nulla è solo vostro. E questo? Cos'è questo? Comunismo divino? Era combattuto tra l'obbedienza e l'esperienza, ma non aveva scelta. Si rendeva conto che la sua vita e quella di miliardi di altre persone era cambiata per sempre. Gli faceva male la testa. La grande sala era immersa nel silenzio. I tappeti e i suoi pensieri attutirono i passi di Drago e Mirko mentre si avvicinavano alla schiena curva del pontefice. Quando Drago gli diede un colpetto con la mano sulla spalla destra, il pover'uomo quasi ebbe un infarto per lo spavento. Quando voltò il capo per vedere chi lo aveva disturbato, rischiò l'infarto per la seconda volta in pochi secondi. Non capita tutti i giorni che il creatore venga a trovarti in casa tua. «Ciao, Benny», disse la voce dell'Altissimo. Il pontefice cadde in ginocchio. Non riusciva ad alzare lo sguardo. Tutto quello che vedeva erano i neri anfibi di Mirko e le scarpe da ginnastica bianche di Drago. Nella mente aveva un turbinio di pensieri, non ultimo, con chi era venuto a trovarlo, Dio. «Mio Signore», furono le uniche parole che riuscì a dire prima che gli si annodasse la lingua.